Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Parte il conto alla rovescia per quello che secondo gli esperti sarà il picco massimo dell'influenza previsto nella settimana tra il 31 gennaio e il 6 febbraio. Al momento, secondo i dati diffusi dalla rete italiana Sorveglianza Influenza Influnet, coordinata dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, il virus ha messo a letto 1,7 milioni di persone. Allora, chi non l'ha ancora presa, ci chiami subito. Punteremo sulla prevenzione. Chi la sta covando crede di essere lì per ammalarsi, si faccia avanti, ma un ascolto di riguardo lo dedicheremo a chi ci sta seguendo da casa con naso rosso, raffreddore, qualche linea di febbre, un po' di tosse. 800 24 00 24. La causa del raffreddore comune è un minuscolo virus facilmente identificabile dal suo naso rosso. Sebbene il virus non sia pericoloso, colpisce molte persone. Il tesoruccio di mamma non si sente bene. Ora ci penso io. Non prendere freddo. Hai anche la febbre. Vedi, si è già passata. Stacco aperto. Un bel impacco caldo. Rinfreschiamo la gola. E le gocce per il naso. 800 24 0024 SOS influenza, consigli per evitarla, indicazioni per riconoscerla, attenzioni e cure per superarle bene senza rischiare ricadute. Insomma, parafrasando un vecchio adagio, ascoltatore informato, ascoltatore dall'influenza salvato o presto curato. Qual è il vostro rimedio per contrastare i primi sintomi dell'influenza, per uscirne presto, rapidamente e in tutta salute? Iniziate a scriverci e a chiamarci. Come sempre, anche oggi il consiglio di lettura raggiungerà il messaggio o la testimonianza più carina che arriverà in diretta. Il libro di oggi è Influenza, niente paura. Ed in linea con noi abbiamo il suo autore, Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai nostri ascoltatori. A parlare di influenza quasi quasi mi sembra già di averne un po'. Aspettiamo. Senta un po' questa tossetta, che cosa sarà? Speriamo che tanto che non sia influenza, anche perché ci sono le forme da raffreddamento, quindi non è detto che tutto sia influenza, però vediamo e cerchiamo di tenerci allerta per quello che può accadere. E intanto io saluto il ministro della salute, professor Ferruccio Fazio, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno. Ministro, che influenza fa? Una domanda che anche la sezione del sito di prevenzione e comunicazione sociale che il Ministero della Salute ha predisposto per quest'anno, che io consiglio ai ascoltatori, perché lì trovate test, giochi, dati, tutti all'insegna dell'interazione. Ministro, quali sono i cardini della vostra strategia preventiva? Quali i punti di forza, le innovazioni? Ma anzitutto appunto abbiamo puntato molto su un sito interattivo di informazioni, invitiamo la gente a guardare il sito del Ministero. Naturalmente su questo sito ci sono le categorie cui è offerta la vaccinazione, ci sono naturalmente anche le misure comportamentali. Anzitutto i cittadini possono verificare l'andamento dell'influenza con delle simulazioni dei dati Influnet che sono evidenziati a colori diversi, verde azzurro per il basso impatto, sì, molto carino, il colore rosso, ecco, poi lo possono vedere. Poi sì, c'è il vaccinometro. Vaccino sì, vaccino no. Non è che il sito sostituisce il medico o comunque delle, ma però insomma consente di conoscere i sintomi in modo semplice e favorisce quindi dei comportamenti responsabili anche da parte dei malati. Mi piace molto. Ministro, quest'anno com'è andata la strategia vaccinale? L'allarme dello scorso anno ha influito sui tassi di adesione di quest'anno? Devo dire che purtroppo le vaccinazioni non sono state ai livelli in cui noi ci saremmo augurati e che avrebbero evitato sicuramente qualche situazione grave. Ecco, quindi noi raccomandiamo sempre la vaccinazione delle categorie a rischio. a chi non si è ancora vaccinato. Ecco, appunto, chi non si è vaccinato sono per esempio le categorie a rischio, tutti i pazienti, soprattutto se anziani, oltre 65 anni, con malattie croniche come polmoniti, ma non solo, ma anche come diabete, malattie cardiovascolari, anche i tumori, malattie debilitanti, perché in questi pazienti l'influenza trova un terreno molto fertile e può raggiungere poi i polmoni, allora può creare delle complicanze respiratorie anche gravi. Ministro, ogni famiglia ha il suo, i suoi rimedi per l'influenza, ci vuole dire il suo? letto, caldo, bevande calde, vitamina C. Comunque la cosa importante è anzitutto non andare mai al pronto soccorso, questa è la prima cosa. Se proprio uno è preoccupato perché ha difficoltà respiratorie, chiamare il medico, ma non andare al pronto soccorso. Questo sconsigliamo vivamente a tutti, chiamate il vostro medico, non solo se c'è un po' di febbre, ecco, chiamare il medico se ci sono dei sintomi gravi, in particolare delle difficoltà respiratorie preoccupanti. Grazie al ministro Fazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie, arrivederci. Buonasera. E qual è il vostro rimedio per evitare questa influenza, per non uscirne bene rapidamente? Mi scrive ad esempio Mirko: quando sento un po' di influenza addosso, la prima cosa che faccio è andare in palestra e sudare molto, così butto fuori tutto. Salvo invece mi dice che francamente non so quali rimedi usare, perché prendo l'influenza ogni volta, una volta ogni 10 anni. Sappiamo però, cari amici, che l'influenza non guarda in faccia nessuno, ma c'è una risposta di genere all'influenza, si è sempre saputo, ma finalmente un gruppo, direi illuminato, di ricercatori sudcoreani mette nero su bianco. La ricerca è stata riportata anche dal Corriere della Sera. In linea con noi abbiamo Luigi Ripamonti. Luigi. Ciao Nicolette, come stai? Io bene. No, adesso a parlare di influenza mi sento un po' influenzata, ma con i rimedi anche che mi suggeriranno i miei ascoltatori e i miei ospiti penso di scamparmela. Senti, il lamento del maschio influenzato, noi le donne l'abbiamo sempre saputo, ma adesso è certificato, i maschi, soprattutto quelli un po' più stressati, si lamentano molto più di noi donne dei sintomi dell'influenza, del raffreddore, li vivono malissimo, spesso esagerandoli e spesso direi rompendo le scatole oltremodo a noi che continuiamo come delle formichine a lavorare nonostante qualche linea di febbre, gli acciacchetti eccetera. Tu che maschio sei? Da influenza? Io sono, quando mi ammalo, influenza di qualsiasi altra cosa, tendo a ritirarmi in buon ordine, non parlare con nessuno, non vedere con nessuno, così ottengo due risultati: non disturbo nessuno e non mi faccio disturbare da nessuno. Sono un po' atipico, diciamo. No, comunque è vero, si sa che, insomma, è nozione comune che i maschi sopportino un po' meno bene delle donne i piccoli guai fisici, via. Cioè, sì, abbiamo ripreso questa ricerca perché ci sembrava anche simpatica, diciamo che non dice nulla che non si sapesse, via, sappiamo che siamo un pochino più piagnoni noi maschi. Senti, tu l'influenza, dato che non ti lamenti, l'hai già avuta, puoi lamentarti adesso con noi se l'hai avuta. Nel senso che a Milano, come sarà capitato anche da voi, credo in redazione, anche da noi è così, saranno 15-20 giorni che passano virus di prime vie respiratorie, anche seconde vie respiratorie, che non saprei se possono essere ascritti alla classica influenza stagionale o ai molti virus che girano, come normale che sia in questa stagione. Sì, io penso di averla fatta e credo di averla fatta anche in piedi, benché sia un maschio lamentoso. Però sì, insomma, sta girando, credo di averla fatta. Se non ho fatto un'influenza vera, me la farò prima o poi, insomma. Chiamaci per lamentarti in diretta, dai. Il lamento di Luigi Ripamonti. Grazie a Luigi. Ciao, a buona giornata. Grazie, dottor ciao, Gargiulo. Grazie, dottor Gargiulo è con noi? Abbiamo tantissimi rimedi, oggi suggeriremo rimedi naturali, rimedi di famiglia, rimedi che arrivano dalla tradizione popolare, ma anche i consigli del dottor Carlo Gargiulo. Ma voglio leggerle subito un consiglio che mi arriva da Miriam e mi descrive: tanta cipolla cotta, oppure una volta tritata aggiungere succo di limone al succo di cipolla, lasciare sul termosifone per un'ora e aggiungere zucchero e bere. Vecchio rimedio brasiliano. Cosa le suggerisce questa cipolla con il limone, il miele, lo zucchero? Ma devo dire che è un sistema migliore per tenere lontano chiunque dall'ambiente dove sta l'ammalato, e quindi per evitare il contagio è perfetta. Giampaolo dalla provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, l'ha fatta? Pensa di esserci vicino, la scampata? Io sono tanti anni che non la prende, come non la prende tutta la mia famiglia, compreso anche una bambina da un anno, un bambino da 7 anni e un bambino, una bambina da 5 anni. Allora ha trovato la formula, che cosa fate? Noi usiamo la classica dieta mediterranea, 2 verdure ogni pasto, la pasta a mezzogiorno, la sera solo un secondo, non stiamo troppo al caldo, soprattutto in casa d'inverno, e ci mangiamo le nostre cose di stagione, la verza, il cavolfiore, tutti i prodotti di stagione naturali. E tutti quanti, sono più di 4 anni che non ci prendiamo nessuno un'influenza, io sono più di 10 anni, sì. Sport, anche i bambini più piccoli, al freddo, uno fa calcio, l'altra fa nuoto, la piccolina ha cominciato adesso a fare nuoto. E quindi tenete l'influenza fuori dalla porta proprio con la dieta mediterranea. Grazie Giampaolo. Dottor Gargiulo, mi stanno già chiamando degli ascoltatori, l'ultimo è questo che mi scrive: com'è possibile che sia a letto, è un'ascoltatrice, rotta, con il naso rosso e la testa nel pallone, senza febbre, un po' di tosse, ahimè fumo, anche se poco ora, com'è possibile, dicevo, visto che a novembre ho fatto il vaccino anti-influenzale, non posso stare sempre a casa perché ho i cani da portare fuori, la capisco bene, ho 57 anni, grazie Carmen. Allora, il vaccino antinfluenzale serve per l'influenza, che è però purtroppo solo una delle malattie da raffreddamento a cui possiamo andare incontro in inverno, quindi ci mette al riparo dalla malattia peggiore, perché effettivamente di tutte queste patologie l'influenza è quella che dà più rischi, che può creare più problemi e può essere anche in alcuni casi veramente drammatica. Ecco che il vaccino è servito senz'altro alla nostra ascoltatrice, avrà preso un'altra delle forme virali che danno tosse, raffreddore, infatti diceva sto a letto con le ossa rotte ma non ho febbre. Ad esempio l'influenza classica è caratterizzata da un rialzo brusco della temperatura e anche molto elevata, quindi probabilmente non è influenza, l'influenza non l'ha presa e facilmente non la prenderà proprio in virtù del vaccino. Stefano ci chiama da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta. Allora, niente, io, mia moglie e mia figlia, sì? Io ho 50 anni, mia moglie, insomma, mi seguo a rotola, una figlia di 20 anni. Sì. Niente, in una settimana ci siamo più o meno ammalati tutti e tre. E io, con tutte e tre, con delle sintomatologie diverse, cioè io grande mal di gola e tosse senza febbre. Sì. Mia moglie e grandi dolori cervicale, la nuca dietro e tutti i dolori addosso, brividi, senza. Poi con voi l'influenza, Stefano, come dice la ricerca, è sempre più cattiva, no? Vi lamentate, la fate sempre un pochino in modo più forte, più virulento rispetto a noi, almeno così ci raccontate, quindi lei ha avuto, e invece sua moglie e sua figlia? Allora, sì, mia moglie ha questi dolori forti, insomma, e mia figlia invece no, mia figlia ha grande mal di stomaco, poi diciamo intestino, una cosa gastroenterica. Ecco, visto e considerato che probabilmente questo virus sono stato io il primo a portarlo in casa, volevo sapere come mai si è sviluppato in modi così creativi, sì. Diversi. No, insomma, non è monotona questa influenza, dottor Gargiulo. No, non è monotona. Sa stupirci. Il virus passando da un individuo all'altro diventa più forte, più potente, per questo noi cerchiamo sempre di bloccare la diffusione virale, perché questo virus nell'organismo umano trova ancora di più il modo per diventare resistente alle difese naturali del nostro organismo, che sono le uniche efficaci. Ricordiamo che in corso di influenza gli antibiotici non servono a nulla, perché gli antibiotici non curano, non combattono i virus. E allora ecco che è cambiata la tipologia della malattia. L'infezione è sempre la stessa, ma la tipologia cambia a seconda della persona che la contrae. Se lei si ricorda, tante volte le persone dicono: ah, io ho preso l'influenza intestinale, si è manifestata con dolori addominali. Ci sono delle prevalenze diverse a seconda dei nostri organi bersaglio, quindi può succedere di avere più forme respiratorie, un po' più forme che danno fastidio all'intestino, ma facilmente il virus di fondo è sempre quello dell'influenza. Come evitare, mi scrive Marco, di prendersi l'influenza adesso che arriverà il picco? Ci sono dei consigli, oltre a quello di lavarsi le mani di frequente? Sì, ci sono i consigli di evitare intanto gli ambienti troppo affollati. Se noi ci ricordiamo, lo scorso anno con il discorso della pandemia furono dati degli interessantissimi consigli, quello di levarsi le mani appunto, quello di evitare i luoghi troppo affollati, quello di essere educati quando si starnutisce o si tossisce portando il fazzoletto davanti alla bocca, ancora quello di utilizzare a volte anche quelle soluzioni igienizzanti. Immaginiamo solo una persona che va in metropolitana, che si deve tenere al corrimano per evitare di cadere, e poi magari quella stessa mano che ha appoggiato su un corrimano dove potrebbe esserci il virus se la porta magari vicino alla bocca per un motivo qualsiasi. Ecco, avere queste accortezze, queste prudenze significa rallentare il percorso dell'influenza. Ancora, areare spesso gli ambienti di dove si soggiorna, nelle scuole, nelle classi, ogni tanto aprire la finestra per cambiare l'aria e far sì che venga rinnovata è particolarmente utile per i nostri ragazzi, perché sono loro una delle fonti principali di contaminazione e soprattutto di passaggio dai ragazzi poi alla famiglia, in casa e magari agli anziani. Elisabetta da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi mi avete preceduto perché una delle forme di prevenzione che io suggerisco ai miei nipoti, alla mia famiglia eccetera è quello di lavarsi le mani appena si rientra in casa. Quando una volta si è presa l'influenza, io da anni ormai uso di fare questo brodo con carota, cipolla e sedano con un pezzetto di pollo, che il dottore poi confermerà che da tante parti del mondo è arrivato. È vero, conferma con della. Il pollo certo. Ha degli enzimi particolari che aiutano a guarire l'influenza e mi sono trovata sempre molto bene. Elisabetta, grazie per questa ricetta, devo dire salutare. Dottor Gargiulo, il brodo di pollo è stato rivalutato anche dalla ricerca. Effettivamente sì, contiene queste sostanze che possono aiutare il nostro organismo, possono consentire quella che è l'unica difesa contro l'influenza, che è appunto il sistema immunitario, quindi migliorare l'azione del sistema immunitario. Anche con il nostro ascoltatore di prima che raccontava della sua dieta mediterranea condotta durante tutto l'anno praticamente, che dà come risultato sicuramente un'azione antiossidante, sicuramente l'eliminazione di radicali liberi e quindi un miglioramento delle condizioni generali. Ancora l'attività fisica. Si vede tante volte i nostri ragazzi magari che fanno allenamento al calcio all'aperto o sotto la pioggia e poi non si ammalano perché probabilmente hanno un fisico particolarmente robusto e robustito dall'attività sportiva, dall'attività agonistica. Quindi sono tutti rimedi utilissimi. E poi ecco, nell'influenza io credo che la naturalità dei rimedi sia veramente da aiutare il più possibile, perché l'influenza normale non ha nessun tipo di cura se non quella di un organismo che può combattere il virus. E poi anche l'influenza ha i suoi lati positivi, possiamo fare uno stacco, starcene a casa, no? Un pochino. Beh, c'è anche quel poter essere un po' coccolati ogni tanto, coccolati, che non è male. Dai, questa è una delle medicine migliori. 800 24 00 24, restate con noi, adesso andiamo ai mercati, al meteo. Io nel frattempo, dottor Gargiulo, mi sento sempre più malata. Andrò con i rimedi dei miei ascoltatori. A tra poco! Essere e benessere. Sono Joe Fox. Che cosa ci fai? Scusa, posso salire? No, credo proprio che sia una buona idea. Perché ho un terribile raffreddore. Lo senti o no? Sì. Certo che lo senti. Senti, continuo a starnutire, non sono granché sveglia. Sto prendendo echinacea e vitamina C e dormo praticamente 24 ore al giorno e ho pure la febbre. Da C'è posta per te, ma dottor Gargiulo, il bacio, se il nostro innamorato è raffreddato, dobbiamo proprio evitare di baciarlo? Assolutamente sì, e purtroppo quindi, bisogna rinunciare a questa bellissima e piacevole abitudine. Quindi ha fatto bene a tenerlo fuori dalla porta, in teoria. Sì, sicuramente sì, è quello che consigliavamo. l'anno scorso, quando appunto si parlava di questa diffusione dell'influenza, di utilizzare la mascherina protettiva, ma farla utilizzare al paziente, cioè a chi ha in quel momento il virus nelle sue vie aeree e può espellerle verso l'esterno e mandarle. Consideriamo che uno starnuto fa viaggiare delle goccioline ricche infettanti a una velocità di circa 100 km all'ora e le proietta anche a qualche metro di distanza, quindi è un'arma letale vera e propria. Silvana dalla provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno, il mio rimedio molto molto semplice, oltre naturalmente a quelli che avete già dato, arietare gli ambienti, eccetera eccetera, lavarsi le mani, è di mettere un chiodo di garofano sotto la lingua, sì, quando si esce di casa e si va a contatto con le persone. E questo protegge, Silvana? Come? Protegge, ha un effetto protettivo? Esatto. Esatto, per noi, perlomeno a casa nostra funziona. A casa vostra funziona, nella provincia di Belluno. Grazie Silvana, ma voglio chiedere un parere di questi, su questi chiodi di garofano, come ci ha suggerito Silvana, al dottor Ciro Vestita, che è in linea con noi. Buongiorno. A voi. Medico fitoterapeuta all'Università di Pisa. Proviamo? Proviamo anche con il chiodo di garofano? Ma guardi che non è una banalità, no, una banalità. Io lo chiedo a lei. Appunto, beh, sì, voglio dire, il termine speziale o farmacista deriva da spezie, venivano usate prima dell'avvento degli antibiotici comunemente, ad esempio il vin brûlé per combattere le patologie raffreddative. D'altro canto, se lei analizza dal punto di vista fitochimico, quindi il laboratorio, un chiodo di garofano, lei ci trova 352 sostanze, molecole attive con potere antimicrobico e antivirale, delle quali ovviamente sono il 90% sono sconosciute. Quindi queste vecchie metodiche, soprattutto perché sono innocue se ben fatte, possono veramente aiutare in patologie raffreddative al soggetto. I chiodi di garofano, fra parentesi, è una delle spezie più potenti che ci siano in circolazione, la cannella ancora di più. Il professor Veronesi, nel suo bellissimo libro L'alimentazione anticancro, mette al primo posto fra gli antiossidanti la cannella e poi i chiodi di garofano, quindi perché non usarli? Che possiamo usarli perché sono anche molto buoni, danno sapore e ci permettono anche di ridurre il sale. Vero? Ma, che, ma che questo è già un buon passo per tenere sotto controllo la pressione. Esatto, ma ecco, dal punto di vista poi per le patologie raffreddative c'è da dire anche questo, c'è un bellissimo studio della Pennsylvania State University di 2 anni fa che ha detto letteralmente questo: chi soffre di una lieve bronchite, di tosse catarrale eccetera, mettere un cucchiaino di miele nel latte alla sera può essere molto più utile di tanti prodotti di banco. D'altro canto il miele è ricchissimo anch'esso di antibiotici naturali, quindi perché non usarlo? Io aggiungo che se lei nell'infuso di latte e miele alla sera ci mette anche 2 foglie di salvia, lei veramente può combattere in maniera egregia qualsiasi forma virale. Sono metodiche che non hanno effetti collaterali, ripeto, se ben fatte, e soprattutto sono a costo zero, quindi perché non usarle? La salvia, fra parentesi, è ricca di acido salicilico, che è poi il principio attivo dell'aspirina, quindi sono metodiche molto buone, ripeto, di bassissimo costo, che possiamo usare tranquillamente. Il miele in particolare, soprattutto il miele d'acacia, può essere usato anche nei bambini, quindi in età pediatrica si può validare questa lotta contro le patologie raffreddative con delle metodiche naturali estremamente tranquille. Che sono buone! Che sono buone nel senso ampio del termine. Sono buonissime. Se posso aggiungere una cosa, è molto recente la scoperta in pompelmi e limoni di una molecola chiamata naringenina. Questa molecola è utile nei malati di epatite C, ed è una malattia gravissima, mi creda, è per combattere praticamente il progredire dell'epatite C. Perché? Perché vieta al virus C di aggredire nuove cellule del fegato. Allora il mio discorso è semplice: se delle molecole presenti nei pompelmi e nei limoni possono aiutare a combattere una patologia così grave, un virus così aggressivo, si immagini se non possono fare tante tante cose contro un banale virus influenzale che risente molto poi di questi venticelli pubblicitari e commerciali, perché voglio dire, quando arriva l'influenza sembra arrivi la peste. Uno, certo, si mette a letto tranquillo, chiama bello il medico tranquillo e aspetta che tutto passi, perché c'è dietro ovviamente un qualcosa di enorme dietro il virus influenzale. Quindi combattiamolo in maniera serafica e tranquilla, chiedendo sempre consiglio al medico che ci cura. Caterina dalla provincia di Lecco, buongiorno. buongiorno, complimenti prima di tutto per la sua vitalità che esprime sempre nella trasmissione. Grazie Caterina. Prego, io niente, volevo dire che quando sento il primo pizzicorio in gola, che può essere l'inizio di una tosse o influenza, uso sempre la propone in tintura madre, mi bombardo e effettivamente è efficace. Mi bombardo ed è efficace, grazie Caterina. Un parere dal dottor Ciro Vestita e dal dottor Gargiulo. Dottor Vestita. Sì, ma dunque la propoli, già il termine, l'etimologia del termine è molto importante. Propolis vuol dire davanti alla città, e la propoli è la resina che le api mettono davanti all'alveare per proteggersi da ambienti esterni e dalle aggressioni esterne. Le immagini, l'altro giorno vivo in campagna, sono andato in alveare, c'era un serpentello imbalsamato. Può sembrare una sciocchezza, ma cosa vuol dire? Questo serpentello aveva evidentemente tentato di entrare nell'alveare, era stato ucciso dalle api, però se andava in putrefascenza faceva morire tutto l'alveare, loro l'hanno imbalsamato. Magnifico. Con una sostanza chiamata propoli, che è qualcosa di micidiale, è ricca di resine, di idrocarburi, è ricca di tutto e di più. L'unica cosa, bisogna stare attenti, perché anche la medicina naturale può creare dei guai. La propoli va usata se il soggetto non è allergico, perché nei bambini ad esempio dare male la propoli vuol dire far venire degli attacchi asmatici al soggetto predisposto, quindi sempre un po' di prudenza, sapendo che la medicina naturale non è la medicina della nonna. Quindi io dico sempre, noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti, per dirla con San Bernardo. Cosa voglio dire? Noi medici fitoterapeuti siamo dei piccoli nanetti che però ci mettiamo sulle spalle dei giganti, cioè i soggetti che hanno fatto scienza, aggiungendo qualche lume in più. Però ripeto, sempre molta attenzione, perché la medicina naturale, se usata male, può fare pasticci. Dottor Gargiulo. Qua. Beh sì, in effetti il discorso della medicina naturale, soprattutto nell'influenza, è senz'altro utilizzabile con tranquillità, lo dicevamo anche prima, non ho preclusioni da questo punto di vista. Un po' più di attenzione la presterei verso quella che noi definiamo troppo banale influenza. Per persone che hanno già delle patologie, soprattutto delle patologie croniche, non c'è niente di banale nell'influenza, anzi è una patologia importante che va trattata, e trattata con il dovuto rispetto. Ma anche le persone sane, è importante che trattino con il rispetto necessario una malattia che vi tiene a casa, a letto, a riposo, e che ha bisogno del classico giorno di convalescenza prima di riprendere le proprie attività. Ecco, rispettiamo il nostro organismo da questo punto di vista e ne avremo sicuramente dei vantaggi. Poi tutti gli altri rimedi mi vanno bene, sicuramente sì, ma attenzione ancora a una cosa: 3-4 giorni di febbre e poi l'influenza deve scomparire. Se persiste la tosse e le condizioni generali non sono buone, il ricorso al medico di famiglia a quel punto è indispensabile per capire che sta succedendo. Dottor Vestita, molti ascoltatori mi stanno scrivendo, ho fatto l'influenza, è passata bene, ma mi sento così stanco, non riesco più a riprendermi. Occupiamoci anche di loro, perché io ho invitato i miei ascoltatori, se non l'avete preso, se volete evitarla, se la state covando o se siete a letto, chiamateci, ma vorrei dare anche una mano a chi l'ha già avuta, però insomma non è uscito bene, ecco. Beh, guardi, il virus influenzale è un virus che dà veramente fastidio. Le immagini, se lei fa un elettrocardiogramma a una persona sana, che magari in tempi di pace ha un elettrocardiogramma perfetto, le può vedere durante la fase influenzale delle extrasistolie, cioè vuol dire che anche il cuore è affaticato perché è colpito anch'esso dal virus influenzale. In sintesi, quando lei ha superato la fase acuta, deve ancora stare un po' tranquillo, cioè non fare sport ad esempio, non esporti eccetera, fare passeggiata all'aria aperta, respirare, ossigenarsi, stare bene e usare tutte quelle metodiche naturali che possono essere di ausilio. Però quali, signora? Beh, frutta e verdura, io le dico semplicemente questo: c'è una metodica pazzesca che è praticamente quella di usare il centrifugato di cavolo. Le brassicace, cioè il cavolo, sono definite attualmente dall'American Cancer Association la più valida, più valido presidio naturale terapeutico nella profilassi di vari tipi di tumore. Il solito discorso è questo: se riesce a combattere, a fare profilassi per le patologie tumorali, immagini cosa il centrifugato di cavolo può fare come energizzante. Certo. Perché? Perché combatte i radicali liberi, perché dà una marea, una miriade praticamente di sostanze attive. La gente prende integratori. Beh, gli integratori sono sovente un assemblaggio di molecole alla moda. Prima c'era la moda del selenio, perché si è visto che nei topi era utile per alcune cose e sono nati questi integratori. Però attenzione, se io prendo un integratore, prendo prendo sempre 10-12 sostanze molto utili, molto belle, ma sono tutti generali, sono tutti colonnelli di questo esercito. Se io prendo una mela che ha 480 sostanze attive, io oltre ai generali colonnelli c'ho anche i sergenti, i caporali, i soldati. Cosa vuol dire? Che le metodiche naturali, cioè l'ortaggio, il frutto, la verdura, sono un assemblaggio completo, unico, validissimo per ricostituire praticamente la persona che è stata affaticata dall'influenza. Quindi cosa fare? Prendere praticamente tanti ortaggi freschi, sì, frutta di stagione, ricordando che in questo periodo ci sono essenzialmente i kiwi, che sono un miracolo della natura, e gli agrumi. Ci sono certi agrumi, signora, soprattutto la buccia. Tenga conto, ad esempio, che nessuno di noi mangia la buccia degli agrumi. Spesso si fa anche bene perché gli agrumi sono trattati, certo, ma però se non sono trattati, ad quella esempio, è una miniera veramente di nutrienti, oppure gli ecologici, lei prende un pezzetto di buccia e prende una quota di oli essenziali che sono micidialmente ricostituenti, tenendo conto che gli oli essenziali presi da soli, cioè come distillate eccetera, se si sbaglia la dose sono tossici. Se lei mangia la buccia di arancio così com'è, magari con un po' di miele, sicuramente eccetera, non trattata, che non hanno praticamente effetti collaterali perché sono fisiologicamente presenti in questa buccia. Dottor Vestito, dobbiamo andare a sentire la viabilità e torniamo subito dopo indietro insieme. 800 24 00 24, a tra poco. Essere e benessere. Allora, usate agrumi non trattati, mangiatene un po' di buccia perché lì ci sono degli oli essenziali preziosi, ci ricordava il dottor Ciro Vestita, che è in linea con noi insieme al dottor Carlo Gargiulo, e poi andiamo di centrifugati. Scegliamo il cavolo. Dottore, come si fa un centrifugato? Ma è talmente banale. Dunque, il centrifugato di cavolo serve a cos'è il centrifugato di cavolo rispetto all'ortaggio in toto? Serve a togliere le fibre che sovente sono indigeste, ma soprattutto lei riesce a mettere in mezzo bicchiere praticamente un cavolo intero, perché se lei prende una verza di 1 kg, 1,2 kg, facendone il centrifugato ne viene fuori un bicchiere da 150 cc. Questo, attenzione, è fra i presidi terapeutici naturali qualcosa che fa dei piccoli miracoli. Ad esempio nei casi di colite, ma anche in patologie molto gravi, colite ulcerosa, morbo di Crohn, può essere molto d'aiuto. Perché? Perché cicatrizza, ha delle sostanze cicatrizzanti, ha un potere antinfiammatorio. Le immagini, c'è una patologia così diffusa fra i giovani adesso, che è il reflusso gastroesofageo. Questo titolone così grosso deriva essenzialmente dal fatto che mangiamo male, mangiamo di fretta, siamo tutti stressati. Si va dal medico curante, ovviamente il medico curante dà delle terapie, però sono farmacologiche. Bene, pochi sanno che usando il centrifugato di cavolo o di patata, che è ricco di mucillagine e sostanze tampone, è un aiuto in più, certo. La natura questo disturbo, quindi perché non usarli? Anche perché non costa nulla. Ecco, e non hanno controindicazioni. Naturalmente non si deve abbandonare la terapia nei casi in cui è stata prescritta dal medico per improvvisarsi fitoterapeuti. Naturalmente si concorda con il medico curante, in collaborazione col fitoterapeuta, la strada migliore. Dottore, grazie per essere stato con noi. Buonissima giornata. Proveremo il centrifugato. Grazie. Ho un raffreddore, diciamo, perenne. Continuano a dirmi che andrà via, ma il naso non smette di colare. Sono la più disgustosa fontana del mondo. A volte queste cose si trascinano. Devi avere pazienza. No, non posso aspettare. Vediamo cosa si può fare per migliorare la situazione del signor Benton. Ha solo un raffreddore. Un bel lavaggio nasale. Noi teniamo i nostri pazienti. Lavaggio nasale. Esatto. Prendi una siringa a bulbo, gli inietti una soluzione isotonica in una narice e vedrai che uscirà dall'altra. È incredibilmente benefica. Sciacqui e ripeti, sciacqui e ripeti. Dottor Gargiulo, anche il lavaggio nasale ci dà una mano, vero? Beh sì, porta via delle secrezioni che sono potenzialmente infette, quindi aiuta a diminuire la carica batterica, la carica virale, per cui è un'ottima cosa. Volevo solo aggiungere una cosa a quello che diceva prima il collega Vestita riguardo le scorzette, l'arancio, la scorza di arancio. Le scorzette tagliate e immerse nella cioccolata sono buonissime. Ma questa è veramente una chicca, magnifiche. Queste possiamo farle o perdiamo tutta la cosa degli oli essenziali? No. Guadagniamo nel gusto. E guadagniamo nel gusto, e fra l'altro la cioccolata fondente è antiossidante anch'essa, quindi direi che è una buona cosa per chi non ha problemi di glicemia o di diabete, va benissimo. Ma come si sta bene a essere benessere? Allora saluto Elio, che ci chiama dalla provincia di Foggia. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo appunto trasmettere questa mia esperienza. che insomma, mi sembra che sta funzionando. Insomma, niente, oltre le mani consiglio di lavare accuratamente almeno un paio di, cioè quando si, la mattina specialmente, ma anche la sera, le narici in maniera piuttosto profonda, cioè fino a raggiungere i turbinati, perché essendo il naso un filtro dell'aria che respiriamo, quindi ritengo importante la cosa per alleggerire l'accumulo di impurità, ma anche di batteri che insieme alla polvere si possa accumulare nel naso. E con lei funziona, ma mi sembra che anche il dottor Gargiulo sia d'accordo con questi lavaggi nasali. Ce ne sono di vari tipi, io ne ho provato uno magnifico, è una sacchetta che uno appiccica sullo specchio del bagno e viene giù questo tubicino, si mette nel naso, c'è la soluzione iso-ipertonica, è veramente un lavaggio. Io poi soffro di sinusite, per cui faccio spesso e devo dire mi piace. Molto logico tutto questo, perché poi in realtà noi togliamo tutte quelle sostanze che il filtro nasale, che sono all'interno le cilia, che sono all'interno del naso, hanno trattenuto, quindi tutte sostanze estranee, noi le rimuoviamo, le laviamo e manteniamo una migliore fluidità di queste cilia. Quindi tutta la parte di protezione meccanica del naso viene potenziata dal lavaggio nasale. Ma io potevo parlare di influenza senza il mio influenzologo, senza il professor Fabrizio Pregliasco, che è ricercatore all'Istituto di Virologia all'Università di Milano? No, di certo. Professore, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Per lei una domanda difficile, che però farà contente le mamme in ascolto che mi stanno scrivendo, in sostanza. Il mio bambino ha l'influenza, come posso evitare che l'attacchi ai fratelli? Come posso evitare che l'attacchi al nonno, a me che devo lavorare? I papà non vengono citati. Non è facile, perché il rischio è quasi triplo in chi ha un bimbo, soprattutto nella fascia prescolare, di acquisire e infettarsi con l'influenza, appunto se il primo caso, come spesso accade, untore il bimbo. Direi che l'attenzione fondamentale a quelle norme di buonsenso che già Topo Gigio l'anno scorso ci ha ricordato, ma che bisogna applicare: lavarsi frequentemente le mani, addirittura è importante se poi c'è un malato. Attenzione, questo un po' così, un po' trucido però è questo, ai fazzoletti, meglio se sono monouso, ma sono sicuramente una bomba biologica in questo senso, e quindi un'attenzione particolare alla gestione del materiale, anche eventuale lenzuola, cuscino, federa, per una pulizia con una buona attenzione e un uso di asciugamani dedicati. E poi areare i locali, è importante dire che non è un problema di freddo, caldo, ma sicuramente negli ambienti chiusi, e soprattutto se vi soggiorna un malato, queste goccioline respiratorie emesse direttamente, e peggio ancora quando si starnutisce, ma anche solo respirando, sono poi l'elemento di rischio. Quindi una ventilazione, un'eventuale appunto anche umidificazione dell'ambiente senza eccedere è sicuramente fondamentale. È utile mettere, umidificare gli ambienti o con quegli umidificatori che attacchiamo? È importante mantenere un livello all'incirca del 50-60% di umidità, perché sotto c'è un problema di poi non buona praticamente vivacità e funzionalità delle cellule, che rimangono un po' rissecchite, per dirlo un po' così, grossolanamente. Un eccesso di umidità invece favorisce la diffusione anche di batteri, a volte di muffe, ma soprattutto facilita la diffusione dei virus in queste goccioline, che più facilmente si evidenziano quando l'umidità è elevata. Grazie professor Pregliasco. Dottor Gargiulo, il libro di oggi, il nostro consiglio di oggi, in collaborazione con l'IBS, e quindi sarà il libro Influenza Niente Paura che lei ha scritto, abbiamo pensato di darlo a Silvana, che dalla provincia di Belluno ci aveva suggerito all'800240024 di masticare, di mettere sotto la lingua un chiodo di garofano. Lei è d'accordo? Assolutamente d'accordo, abbiamo sentito come può essere efficace, quindi il rimedio della signora Silvana direi che è da diffondere e da utilizzare. Grazie dottor Gargiulo, anche per le scorzette di arancia col cioccolato. Grazie Nicoletta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buona giornata a voi, vi aspetto domani.